Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Meli. Se vi dico self-driving car, auto che si guida da sola, a voi cosa viene in mente? Molti, per esempio, si domandano che cosa faranno durante il viaggio, non dovendo più guidare. Altri pensano a come potrebbe migliorare la sicurezza stradale. Altri ancora, invece, si domandano se sarebbero davvero pronti ad affidare a un robot la propria incolumità e pensano alle mille complicazioni legali in caso di incidente o anche di semplice infrazione. Pochi si concentrano sulle ricadute che la diffusione di veicoli autonomi potrebbe avere sulla mobilità e sui modelli di business del mondo dell'automobile, ed è esattamente ciò che cercheremo di fare in questo speciale Smart City. E come vedremo, la self-driving car potrebbe rivelarsi la chiave di volta di una mobilità più efficace e al tempo stesso più sostenibile. Ma andiamo con ordine. Pensate che la prima auto a guida autonoma risale al 1984 dal Robotic Institute della Carnegie Mellon University in Pittsburgh, Pennsylvania. E già nel 94 l'Università di Monaco e Mercedes Benz portarono su strada due veicoli che percorsero più di 1000 chilometri di autostrada in condizioni di traffico standard e ad una velocità che raggiunse i 130 chilometri orari. Da allora ci sono stati moltissimi esperimenti, però parliamo sempre di prototipi in cui un autista di emergenza, diciamo così, rimane allerta, pronto a intervenire. Se parliamo di modelli commerciali, nessuna casa automobilistica oggi offre nulla di paragonabile. Eppure un po' alla volta l'auto che conosciamo sta cambiando e quasi tutti gli ingredienti di base dell'auto che si guida da sola stanno per fare il loro esordio sul mercato o lo hanno già fatto. Sentite. L'avanzata delle auto che si guidano da sole comincia dal parcheggio, incubo di non pochi automobilisti. Infatti, sono diverse le case automobilistiche che sulle vetture top di gamma offrono la capacità di parcheggio automatico. Volkswagen, per esempio, ha introdotto il sistema Trained Parking, che oltre a rendere l'auto capace di cercarsi un posto libero e di parcheggiare automaticamente, memorizza anche i luoghi dove viene parcheggiata più spesso. Stesse performance esibite dal Remote Control Parking della BMW Serie 7. Passando dal parcheggio alla strada, l'automazione oggi viene introdotta soprattutto allo scopo di rendere la guida più sicura e rilassante. Ford, per esempio, ha sviluppato un sistema di frenata automatica in cui un sofisticato radar riconosce i pedoni e allerta il guidatore con un avviso se c'è il rischio di investirne uno e che, in assenza di reazione, frena automaticamente. La tecnologia radar è utilizzata anche da gran parte dei sistemi di cruise control adattativi, ormai molto diffusi, che permettono di impostare una velocità di crociera e, allo stesso tempo, di mantenere automaticamente la distanza di sicurezza con il veicolo che precede. Sempre nella logica di aumentare la sicurezza, sistemi come il Lane Departure Warning System, presenti a bordo di veicoli Nissan, BMW e altri ancora, aiutano l'auto a rimanere in corsia, mentre Mercedes-Benz ha dotato la sua nuova classe E di un sistema in cui radar e telecamere supportano il guidatore nei cambi di corsia, che vengono effettuati in automatico se i sensori non rivelano la presenza di altri veicoli in zone sensibili per la sicurezza. Intanto Toyota è quasi pronta con il sistema Automatic Highway Driving Assist, che punta a commercializzare entro il 2020. Parliamo di un sistema in grado di guidare in totale autonomia un'automobile su un percorso autostradale. Sfida per la quale si sta allenando anche Audi, che proprio quest'anno ha percorso con una A7 modificata per guidare da sola centinaia di chilometri lungo le autostrade tedesche. Insomma, è questione di tempo, forse per il 2020 o al massimo, insomma, entro una decina di anni, tutte le principali case automobilistiche metteranno in commercio veicoli capaci di guida autonoma, almeno nei contesti più semplici come i tracciati autostradali e le aree di parcheggio. E il progetto V-Charge del Visilab, spin-off dell'Università di Parma, che è tra i centri più avanzati al mondo nello studio dei veicoli a guida autonoma, sta lavorando proprio sulle prospettive che i veicoli autonomi apriranno in fatto di logistica dei parcheggi, come ci spiega il direttore del Visilab, Alberto Broggi. L'obiettivo del progetto è quello di automatizzare il momento del parcheggio. Cioè, quando io arrivo a un parcheggio, scendo dal veicolo nel momento in cui sono di fronte al parcheggio e il veicolo automaticamente va a parcheggiare, quindi cerca il parcheggio libero e poi si posiziona, entra nel parcheggio e si ferma. Questo è l'obiettivo principale. E poi, se ad esempio il veicolo fosse elettrico,